e Radici nel cemento. Venerdì 23 maggio, a partire dalle 15, diretta radiofonica. Fai gli auguri a Radio Onda Rossa. Dalle 18, aperitivo a Via dei Volsci. Due giornate per il compleanno di Radio Onda Rossa. Venerdì 23 maggio, Via dei Volsci. Sabato 24 maggio, CSOA, Forte Prenestino, Via Federico Del Pino, Centocelle. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. È il movimento lento che cerco. E insomma sì, vi aspettiamo venerdì qui negli studi di Radio Onda Rossa al 56 di Via De Volsci, e vi aspettiamo dalle 16 in poi, perché da questi microfoni, o non da questi microfoni come preferite, salutiate questa radio, perché possiamo incontrarci, perché possiamo tutte e tutti contribuire alla vita di questa radio, perché possiamo fare un brindisi e ci sarà un aperitivo insomma verso le 19, e poi insomma il giorno dopo avete sentito tante grandi sono le iniziative al Forte Prenestino. Una mostra fotografica molto ampia, molto interessante, con delle foto molto belle che suppongo insomma faranno emozionare tante delle persone che verranno a vederle, e allo stesso modo i video che andranno proiettati per tutto il pomeriggio e poi anche la sera quando, come sapete, insomma ci sono questi due concerti. Insomma è un momento da cui non si può prescindere il compleanno di questa radio. Radio che risponde al telefono 06 49 17 50, che vi invitiamo a utilizzare se volete parlare con noi di scuola da tanti punti di vista. Quindi sì, riprendiamo a parlare di scuola, un argomento, come dire, che ci è venuto un po' a noi anche a noi, però purtroppo è un argomento molto importante, una di quelle mannaie che si sta abbattendo lentamente, ma sembra in maniera più inesorabilmente sulla scuola pubblica, che è quello degli invalsi. Questi test che sono stati somministrati il 6, 7 e 13 maggio 2014 per questa ennesima tornata in tutti gli ordini e le tipologie di scuole, che vorrebbero essere strumento di valutazione di insegnanti, scuole e studenti. Ne abbiamo parlato nelle ultime trasmissioni, in particolare nell'ultima, che se volete potete ascoltare in podcast dal sito della radio, in cui si è anche un po' allargata l'ottica, andando a vedere critiche che sono state sporte insomma ai test PISA voluti dall'OCSE, che sono un po' il modello su cui sono stati costruiti i test invalsi, e critiche insomma che sono state elaborate in ambito anglosassone, che sono un po' la patria di nascita di questo sistema di valutazione, di cui insomma il Guardian è stato il giornale insomma che ha dato spazio a questo dibattito. Potete appunto riascoltare la puntata della volta scorsa, ma noi questa volta voleremo più basso. Voleremo più basso, perché però insomma è anche, come dire, può anche essere utile vedere come si articola invece il dibattito pubblico sulla scuola in questo paese. Parliamo di uno dei due giornali più venduti in Italia, cioè La Repubblica, che giovedì scorso è uscita con due pagine intere sugli invalsi e soprattutto con un editoriale di prima pagina a firma di Tito Boeri, quindi insomma penna illustre, viene molto prestigiosa del Corriere. Viene considerato come uno dei maggiori intellettuali di questo momento, un economista, uno dei tre fratelli, non è quello candidato alle primarie per sindaco di Milano, ma appunto è l'economista che si pone anche, come dire, come nell'area progressista, quindi come dire il neoliberismo un po' edulcorato proposto dal PD, che è esattamente come quell'altro, però insomma in maniera più come dire così ci girano un po' intorno, ma poi alla fine le cose sono sempre le stesse. E aspetta un attimo, perché tu non stai andando in onda, credo, temo. E cerchiamo di capire perché. Un attimo soltanto, che vi facciamo ascoltare due note di musica. Proviamo a vedere se qua l'altra persona adesso si sente, pronto? E riproviamo. Sì, adesso ci sei, ci sei. Che fortuna. Niente, quello che cercavo di dire prima è che effettivamente può essere utile andare a dare un'occhiata al discorso pubblico, appunto, che viene fatto sull'Invalsi, e confrontarlo, sebbene a una settimana di distanza, col discorso pubblico che invece viene elaborato in ambiente anglosassone. Parlavi appunto degli articoli del Guardian, dove evidentemente la consapevolezza sulle distorsioni poi che questi test provocano a vari livelli è probabilmente più avanzata, e dove forse c'è per forza di cose un atteggiamento anche meno provinciale rispetto a questi test. Perché anche chi ci sta sentendo possa rendersi conto dell'immagine che viene proprio propalata dei test Invalsi attraverso le pagine, diciamo, dei quotidiani mainstream più letti forse e senz'altro più prestigiosi, forse possiamo dare un'occhiata proprio nel dettaglio a quest'articolo, che già dal titolo lascia qualche perplessità, perché è la rivolta dei ragazzi contro i quiz a scuola, come se appunto la consapevolezza di questa rivolta, che poi assume, come abbiamo cercato di documentare, forme differenti e anche quote di adesione differenti, comunque come se questa rivolta fosse una rivolta di ragazzi, appunto di ragazzini, e quindi sì, meritevole di attenzione, ma fino a un certo punto. Sì, viene dato, come dire, un timbro un po' di ribellismo, ecco, neanche poi si dice il movimento studentesco, si dice i ragazzi. No, i ragazzi, i ragazzini, insomma, un atteggiamento paternalistico, come a dire. In realtà questo è solo nel titolo, perché poi l'incipit dice cose in realtà anche diverse, ma altrettanto sbagliate, se possiamo permetterci, appunto. E vado a leggere proprio dall'inizio: non è da oggi che si cerca di invalidare gli Invalsi. Gli Invalsi è proprio questo modo di chiamare tutto per nome, tutto in maniera breve. Comunque si è tentato in passato di boicottarli, consegnando i test in bianco o permettendo agli studenti di copiare gli uni dagli altri, il che significa rendere i test di apprendimento del tutto inutili. E voglio dire, ci piacerebbe sapere, appunto, Boeri da dove ricava queste informazioni, perché viene dato per scontato che si permette o si è permesso agli studenti di copiare, e non si capisce in che percentuali, in che modo. Comunque sia, gli studenti delle scuole superiori, gli insegnanti precari, aperta parentesi, in non poche scuole la maggioranza del corpo docente, e sinceramente questa è la prima falsità assoluta che tra le altre cose tende a dare un'immagine, come al solito, denigratoria della scuola, perché sinceramente io personalmente insegno in una scuola che non è certo una scuola del centro storico, una scuola scuola prestigiosa e ambita da insegnanti, come dire, di lungo corso, e però dopo, soprattutto una volta che la riforma Gelmini è andata a regime e comunque dopo i tagli previsti dalla riforma Gelmini, gli insegnanti precari sono rimasti veramente pochi, ma molto molto pochi. Nella mia scuola si contano proprio sulla punta delle dita di una mano praticamente in tutte quante le discipline. Che io sappia, gli insegnanti precari non sono mai stati la maggioranza. No, questo in assoluto. Prima adesso... della riforma Gelmini si parlava del 40% del personale docente impiegato. Adesso ovviamente tantissimi e tantissimi hanno perso il lavoro, e dire questo è semplicemente non sapere di che si sta parlando. Oltre a questo si dice anche che la protesta la fanno gli insegnanti precari, se non sbaglio. No, si dice gli studenti delle scuole superiori, gli insegnanti precari e molti dirigenti. Cioè, quindi gli insegnanti di ruolo no? No, gli insegnanti di ruolo quelli sì, ma perché si deve poi inserire un'altra distorsione, perché molti dirigenti scolastici hanno da sempre visto con ostilità queste valutazioni. A parte il fatto che, per la mia esperienza, se c'è una categoria, un'esperienza diffusa, non parlo di una singola scuola, però se c'è una categoria che ha visto con pochissima ostilità queste valutazioni è proprio quella dei dirigenti scolastici, se vogliamo andare a... Le hanno difese in tutti i modi, hanno cercato, almeno ci saranno le eccezioni come sempre, ma insomma nella maggior parte delle scuole tutti i modi possibili per obbligare l'insegnante, anche quando l'obbligo non c'era, a fare questi test, hanno introdotto sanzioni per gli studenti che si rifiutavano di compilarli. Insomma, io sinceramente non ho letto di grandi proteste dei dirigenti, ecco. mai ne ho letto, mai nella mia esperienza proprio di frequentazione della scuola. Se vogliamo essere benevoli, e vogliamo essere benevoli, possiamo dire che sono allineati completamente i dirigenti scolastici rispetto a quello che loro stessi tendono a presentare, hanno sempre teso a presentare come un obbligo, quello della somministrazione e della correzione dei test invalsi. Quindi già questo... Verrebbe da pensare che Tito Boeri non sa di che sta parlando per niente, che spara delle cose a caso, ma sicuramente non sarà così. No, ma è sempre così ben documentato, così efficace, che non sarà in questo modo, e quindi insomma, per accertarci anche di questo, andiamo avanti a leggere. E però dopo viene una cosa curiosa, perché Tito Boeri cerca di ricostruire le motivazioni per cui queste tre categorie avrebbero sempre manifestato ostilità nei confronti dei test invalsi. Gli studenti rifiuterebbero i test a crocette, cioè lui lo dà come un dato di fatto, rifiutano i test a crocette imposti dall'altro, tra virgolette, e quindi, come dicevi tu, per una sorta di ribellismo generico, senza nessuna consapevolezza, me lo imponi dall'alto e quindi io non lo faccio. E questo è veramente un modo assolutamente acritico di affrontare quella che da parte del movimento studentesco, in varie forme comunque, è una protesta sempre piuttosto ben motivata. I secondi, e questa è la cosa più veramente agghiacciante, cioè gli insegnanti precari, appunto, temono che possano allontanare ulteriormente la tanto anelata stabilizzazione. E sinceramente io non so che ne pensi tu, ma proprio non si vede come potrebbero i test invalsi allontanare la tanto anelata stabilizzazione. La stabilizzazione è lontana per gli insegnanti precari, e la progressiva perdita e erosione di posti lo sta sempre ogni anno di più confermando. Però non c'è motivo e non c'è rapporto ad oggi tra l'esito del test invalsi e l'eventuale stabilizzazione di un insegnante precario. Ma io non vedo proprio il collegamento logico tra queste due cose. Quello che si vuol dire è che lo fanno i precari perché sono dei poveretti che hanno paura di perdere il posto di lavoro, al di là del fatto che insomma il posto di lavoro è una cosa piuttosto rilevante in questo momento storico, ma le lotte dei precari si sono giustamente appuntate su altri fronti, per esempio il taglio di 8 miliardi l'anno alla scuola, perché è da lì che sono stati persi i posti di lavoro. L'invalsi su questo non è che c'entri molto. Sì, però voglio dire, non credo che Boeri ignori così tanto del mondo della scuola da non sapere che sostanzialmente un insegnante precario entra in ruolo per scorrimento di graduatoria, e che i test invalsi non hanno nulla a che vedere con lo scorrimento della graduatoria, quindi non si capisce proprio. I terzi, cioè i dirigenti scolastici, vedono comunque con preoccupazione quella che dopo tutto è una forma di valutazione del loro operato, e quindi sostanzialmente il discorso e la nanna è sempre la stessa, cioè il mondo della scuola nelle sue diverse componenti componenti, in questo caso insegnanti precari e dirigenti scolastici, rifiuterebbe di essere valutato e rifiuterebbe di essere valutato per paura. E, per paura di gente come lui, sostanzialmente, che non sanno che di che parlano. Paura però, ma tanta paura, perché insomma. E infatti appunto si, diciamo, conferma questa impressione, perché lui riattacca al capoverso successivo: per esperienza diretta so quanto sia difficile far accettare una valutazione a chi deve essere valutato, e quindi il tema è appunto la valutazione, e lui paternalisticamente ci dice che sa che è difficile far accettare la valutazione. Ognuno vorrebbe costruirsi il proprio test in nome della propria specificità, e invece ci valutiamo così, senza nessun tipo di attenzione a nessuna specificità, tanto l'importante è dire che si valuta, che ce ne importa poi. La ribellione contro i test standardizzati e le crocette è spesso una ribellione contro qualcosa che può dare informazioni comparabili fra classi e scuole diverse. I test imposti dall'alto servono proprio a evitare che i docenti scelgano di adottare criteri di valutazione favorevoli ai propri studenti e dunque a se stessi, cioè che se tu verifichi uno studente su quello che lui ha effettivamente fatto in classe, questo qua in qualche maniera gioverebbe all'insegnante. Cioè non riesco a capire il senso. No, ma sì, è che si fanno delle finte valutazioni, chiaramente io credo che lui voglia dire che gli insegnanti vorrebbero delle finte valutazioni per risultare bravi. Sì, sì, no, lui vuole dire questo, però normalmente io ti valuto su qualcosa che ho fatto, non è che ti valuto su qualcosa che è calata dall'alto e di cui tu non hai mai sentito parlare, perché anche questo è bizzarro comunque. Ma sono gli stessi insegnanti i primi a sapere che non si può delegare ai propri studenti la decisione sul voto che devono ricevere dopo un'interrogazione. Questo immagino che vorrebbe essere velenoso, ma io non riesco a capirne proprio il senso. Cioè, ma perché lui non sa di che parla? Cioè, no, lui veramente butta là parole a casa. No? Come a dire, se gli studenti vi chiedessero di mettersi il voto Ma insomma, anche questo poi mi sembra un modo, come dire, anche di sminuire un tema molto grande, che è quello reale della valutazione, su cui se si smettesse di parlare di test invalsi nella scuola forse si potrebbe cominciare a parlare di questo, ma invece no, si continuerà a parlare di test invalsi. Sì, ma sì, io sono d'accordo con te, e questo discorso ci porterebbe molto lontano. Un giorno forse lo potremmo anche affrontare. Insomma, il discorso sulla valutazione è un discorso molto molto complicato, perché effettivamente la cosa principale che bisognerebbe capire: che cosa bisognerebbe valutare nella scuola, in che modo e con quali studenti. Sì, anche cosa si vuole insegnare. Sì, cosa perché si vuole prima insegnare. Di valutare gli studenti bisognerebbe sapere cosa vogliamo che gli studenti sappiano, cosa è importante che tutti e tutte, quando escono da quei 13 anni di scuola, abbiano imparato. Ma invece di questo non ne parliamo, parliamo di crocette. No, non parla nessuno, perché questo lo stabilisce l'Invalsi, e l'Invalsi lo stabilisce. E l'Invalsi non è nessuno, ricordiamocelo. Non si sa chi è. È un ente commissariato di 20 precari che si sono licenziati, quindi adesso boh. E però l'Invalsi Tucur per assunto lo stabilisce, e lo stabilisce bene, non c'è discussione. E Tito Boeri è d'accordo. Comunque vado avanti con le perle di saggezza di Tito Boeri, e questo non vuol dire, anche lui riconosce, che i test invalsi non siano perfettibili, cioè non sono perfetti ma sono perfettibili. Cioè non sono Dio. Sì, e tutti i test lo sono. E poi appunto fa riferimento all'attacco del Guardian contro i test PISA preparati dall'OCSE, e niente, insomma, come dimostrazione del fatto che tutto si può migliorare. I test invalsi dovrebbero permettere, e questo è il primo miglioramento che Boeri propone eventualmente, l'ancoraggio, vale a dire la possibilità di comparare i risultati nel corso del tempo per capire se un istituto sta migliorando nel corso del tempo. È tutto nel corso del tempo. Vengono inoltre per lo più preparati da insegnanti su base volontaria, sottraendo tempo ad altre attività. E, come spesso avviene quando non si è remunerati, non dedicando a questo esercizio il tempo che meriterebbe. Questa è proprio una cosa che non so da dove se la sia cavata. Tito, soprattutto Boeri. Perché l'insegnante deve prendere una cosa su cui c'è una crocetta, ci sono quattro risposte. Lo studente ha messo una crocetta, l'insegnante deve prendere quella crocetta e metterla in una tabella. Non è che proprio ci voglia la scienza di Sansone. No, lui però non è questo, perché lui non sta parlando della correzione, dice che i test invalsi falsi vengono preparati da insegnanti su base volontaria, sottraendo tempo ad altre attività. E questo è falso. E questo è falso, cioè, ma esiste l'invalsi, se no che ci sta a fare? E vengono, come si dice con un verbo orribile a scuola, somministrati tristemente dagli insegnanti, cioè materialmente vengono dati ai ragazzi e agli insegnanti. No, fra l'altro, insomma, evidentemente Tito Boeri, oltre a non essere mai entrato in una scuola, non è mai entrato nemmeno nel sito dell'Istituto Invalsi, perché nel sito dell'Istituto Invalsi c'è il bando per chi vuol contribuire a scrivere le domande, 5 euro l'una pare la paghino. Eh sì, ma questo io non so se lui veramente come crede. Come la settimana enigmistica. Sì, come la settimana enigmistica. Non so se veramente lui crede a quello che scrive, oppure se semplicemente vuole continuare a dare l'immagine degli insegnanti che non fanno niente, che fanno male le cose, così sparpagliandola dovunque in tutto quanto quello che gli capita. Però non è vero che si devono anche migliorare le modalità con cui si svolgono le prove, ci devono essere ispettori che controllino che agli studenti non venga permesso di copiare, i risultati devono essere valutati da docenti diversi da quelli degli allievi. Ma gli ispettori ce ne saranno 20 in tutta Italia, cioè. Ce ne vuole di più, ispezioniamo e comunque evidentemente tutti quanti i docenti hanno tutti gli incentivi a far fare bella figura ai propri studenti, bisognerebbe al contempo raccogliere informazioni sugli studenti. Ma quali incentivi, scusa? Perché ci danno dei soldi? No, lui parla anche male l'italiano, perché lui credo che vorrebbe dire hanno tutto l'interesse per far fare bella figura ai propri studenti, così l'interesse è generico del fatto che i miei studenti sono bravi, che poi a me sinceramente comunque, e invece usa la parola incentivo perché evidentemente aveva molto sonno, perché è economista, sì, oppure perché non ha scritto lui, non lo so perché, comunque perché è economista. Bisognerebbe al contempo raccogliere informazioni sugli studenti assenti alle prove in modo tale da dissuadere gli istituti dall'incoraggiare assenze delle selezioni degli studenti che hanno le performance peggiori. Ma chi se ne frega? E mandiamoli i carabinieri a casa se sì. Sono assenti il giorno degli invalsi. Hai mai seriamente pensato di scoraggiare un tuo studente che va male dal fare il test invalsi? Ma lo facesse. A questo punto i risultati del test potrebbero essere resi pubblici, cosa che già è, scuola per scuola, nel loro nel loro migliorare o peggiorare nel corso del tempo, senza timore di fornire segnali fuorvianti alle famiglie. Oggi solo un docente su un 3 si informa sui risultati dei test dei propri studenti e solo una scuola su 5 c'è una discussione, spesso non pubblica, sottolinea, dei risultati del test. Allora, prima di tutto, i risultati dei test invalsi ti vengono proprio portati praticamente in classe, quindi anche non volendosi informare è difficile farlo, perché sei proprio costretto a vederli comparati con quelli delle altre classi, con quelli delle altre scuole della regione, della nazione, del mondo e così via. E dopodiché la discussione sui risultati del test, perché devo farla pubblica, ma pubblica come streaming? Non capisco a cosa pensa il streaming, sarebbe una bella idea, sì. Un bel consiglio di classe in streaming. Nell'organizzare questi incontri bisognerebbe dare informazioni aggiuntive rispetto ai test e così via. Io arriverei all'adagio popolare se non hai altro. No, di perché rilevante. Lui dice, no, scusami un secondo solo, perché lui dice che nell'era di internet ogni docente potrebbe affiggere sulla pagina web della scuola la nota in cui descrive come intende organizzare il programma di insegnamento, utilizzare i propri metodi didattici. È una cosa che già c'è, cioè una cosa che si fa, però Boeri, prima di prendere la pennina in mano e scrivere, dovrebbe informarsi anche sui motti e i detti popolari, perché una cosa che mi ha colpito tantissimo è che in conclusione di articolo, proprio le ultime righe, vola altissimo e dice che è bene che un esecutivo che dice di voler invertire la tendenza al disinvestimento del nostro capitale umano avviata dai governi precedenti, questo esecutivo è bene che si ricordi di un vecchio adagio popolare che io adesso vado a leggere. Se non ti poni il problema di misurare una cosa, significa che quella cosa per te non ha alcun valore. Ma non esiste questa adagio popolare. Io non l'ho mai sentito, ho anche cercato in internet, c'è solo il suo articolo come occorrenza, non c'è altro. Anche perché poi gli adagi popolari in genere fanno rima, insomma, hanno una musicalità, un ritmo. Botte piene e moglie ubriaca, moglie buona dei paesi tuoi, non lo so, cioè niente. E no, si vede, non lo so, è milanese, Boeri, noi no, magari è un adagio popolare. Un adagio popolare che si pone il problema di misurare, vedi? È un adagio popolare del lombardo. Neoliberista. E si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire. scelta musicale anche abusata, però ci sembrava veramente il minimo. Questi grandi intellettuali italiani. Poi un giorno ci chiederemo anche, magari tutte e tutti insieme, collettivamente, perché ora va così di moda parlare di scuola sui giornali che non se la sono cagata per decenni, ora di continuo di scuola si parla, sarà per Renzi perché ha detto che lui gli interessa, non so, però ora ne parlano di continuo e spesso a grandissimo sproposito come in questo articolo che abbiamo appena letto. Sì, anche perché se nessuno si è mai interessato di scuola è evidente che non è che tu in 3-4 ore riesci a costruirti una consapevolezza anche solo minimamente decente su quello di cui devi scrivere, e evidentemente si va a finire così. E il problema è che le idee indotte che si vogliono suggerire, cioè il fatto che si rifiutano i test perché non si vuole la valutazione, sul fatto che gli insegnanti sono dei poveretti che non fanno niente, che non conoscono quasi lo strumento informatico, e sono le prime che vengono alla mente dell'intellettuale così postmoderno. Vabbè, e passiamo a un altro argomento brutto, anche questo. Si parla di TFA, tirocinio formativo attivo, che è lo strumento messo a punto da chi? Non me lo ricordo più, dei nostri ministri. E secondo me da Profumo. Da Profumo. Cioè tirocinio formativo attivo, si tratta di una scuola di specializzazione per abilitare all'insegnamento. Cioè no, diciamola tutta, è lo strumento messo a punto probabilmente dal ministro Profumo per prendere in giro i neolaureati. No, certo. Non è che... Cioè, ma loro ti abilitano all'insegnamento, mica ti danno un posto, cioè nel senso... No, ma non ti abilita neanche all'insegnamento il TFA, perché se non capisco male in realtà a questo punto ti abilita all'insegnamento il concorso pubblico. Il TFA ti dà un titolo che ti mette in grado di accedere a un concorso pubblico, che... Esatto, l'anno scorso per la prima volta è stato fatto questo TFA a frequenza obbligatoria, 2.000-2.500 euro l'iscrizione senza riduzione in base al reddito. 2.000-2.500 euro di iscrizione a seconda degli atenei, dico. Sì, no, a classe di concorso, per cui parlo un po' tecnico, però se tu potevi insegnare in due classi di concorso e volevi avere l'abilitazione in due classi di concorso separate, ti venivano 5.000 euro, ecco. E senza riduzione in base al reddito, perché no? Perché è così, vuoi fare l'insegnante, devi morire. E poi dopo però cosa ci fai con questo quando hai conseguito questo titolo? Niente. Cioè ci puoi accedere a un concorso quando lo bandiranno. Allora, quelli che si sono abilitati l'anno scorso a giugno ancora stanno a casa. L'unica cosa che possono fare proprio in questi giorni è iscriversi alle graduatorie di istituto in terza fascia, cioè niente. Iscriversi alle graduatorie di istituto in terza fascia, se 20 anni fa poteva dare la speranza, insomma, di avere qualche supplenza, insegnanti che stavano male per poco tempo o cose anche più articolate, non lo so, oggi significa non fare assolutamente niente. In tutto ciò, quando ancora non sono stati assunti quelli che hanno vinto il concorso, quando quelli del TFA dell'anno scorso ancora non sono stati messi in grado di accedere a niente, cosa è venuto in mente? Quando esistono ancora le graduatorie a esaurimento per alcune classi di concorso, diciamo, della vecchia abilitazione? Cosa è venuto in mente alla ministra Giannini, onorevole ministra Giannini? Gli è venuto in mente di bandire il nuovo TFA. L'iscrizione scade il 16 giugno, prossimo 21, e di nuovo si mette in piedi una macchina pazzesca per valutare queste persone. Saranno, pare, 19.000 posti, una roba del genere, in tutta Italia ovviamente. E fatte prove in tre fasi. Allora, prima ci si deve iscrivere e pagare una prima tassa, ovviamente, quindi poi si riscuote, si passa a riscuotere l'obolo. Fatto questo, le università che avranno, dove saranno attivati i TFA, che possono essere sia statali che non statali, ma esclusivamente quelle già accreditate dall'ANVUR, a quel punto verrà fatta il test preliminare. Dopo il test preliminare ci sarà una prova scritta e poi una prova orale. E che è un concorso a professore universitario. La prova preselettiva si svolgerà, cioè il test preliminare, entro il mese di luglio 2014. Questo test preliminare, leggo direttamente dal bando di concorso, intende verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie in oggetto di insegnamento di ciascuna classe di abilitazione e il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell'ambito della competenza dell'italiano, ed è predisposto da una commissione nazionale nominata dalla ministra in persona. E avrà lo stesso contenuto su tutta la base, tutto il territorio nazionale. Io non so, qualcuno forse si ricorderà, l'altra volta ci sono state le polemiche pazzesche perché le domande erano sbagliate in moltissime classi di concorso, le risposte ovviamente impossibili, e così le facciamo sbagliate su tutto il territorio nazionale. E niente, comunque chi supera questo test ovviamente poi potrà svolgere la prova scritta, ma non è detto, perché se in una regione ci sono più di quelli, più persone che superano il test di quelle previste, allora ti mandano a farlo da un'altra parte, cioè tu lo puoi fare il TFA, però tipo stai in Sicilia, c'è posto in Trentino e tu puoi andare in Trentino, non ci vuoi andare? Vedi come sei rigido, per questo non c'è lavoro. E comunque poi c'è la prova scritta, ovviamente sulle materie, ciascuna insomma per materia, ci sarà anche è costituito insomma da uno o più discipline, quelle comprese nella classe di concorso, capacità d'analisi, interpretazione, argomentazione, uso corretto della lingua italiana. Sono convinti che gli insegnanti non sappiano parlare italiano, io non lo so perché. E quindi non solo domande a risposta chiusa viene stabilito, perché invece il test preliminare è a crocette. Poi, nel caso di classi di concorso relativa alla lingua straniera, la prova è in lingua straniera. E nel caso di classi di concorso dove c'è contemplato l'insegnamento dell'italiano, c'è una prova d'analisi del testo. Nel caso in cui c'è l'insegnamento delle lingue classiche, c'è una prova di traduzione. Nel caso di classi di concorso scientifiche o tecniche, può essere l'integrazione di una prova di laboratorio. Poi ci sono i candidati che superano la prova scritta, vengono ammessi a una prova orale. Contenuti e calendario delle prove scritte lo farà ciascun ateneo. Insomma, tutto dice che dovrà finire entro ottobre. Noi ci crediamo poco, sinceramente, perché l'altra volta ci hanno messo 6 mesi a farla sta cosa. Stiamo parlando delle selezioni per accedere al TFA. Allora, noi vi ricordiamo che parliamo delle selezioni per accedere a un corso di formazione a pagamento che non dà un posto di lavoro, ma dà la possibilità di fare il concorso. Il concorso che ti abilita. Dopo il concorso entri in graduatoria e aspetti. Questo è l'iter. E quindi noi ci dispiace, ma con tutto l'affetto, l'amore del mondo per chi in questo momento si trova senza lavoro o una situazione di precariato spinto, come molti nella scuola, gli dedichiamo questa canzone e poi finiamo questo discorso sul TFA. Capelli da sola, ma sai, mi sento una persona nuova, ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria e sembrerò in vena. Shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Volentieri un caffè, mi pestano i piedi da un'ora, ho le scarpe da sera, ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici. conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici e niente più che vita di merda. Ma che cosa c'entra il vento? Tanti auguri, ma non ti conosco. Tanti auguri, ma non ti conosco. Non è più il 2013, ma in mano solo alcolici, insomma, senza che non sia senza voler fare un inno all'alcolismo, ma insomma, questo ci pare, ecco. Ed eccoci di nuovo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, 49 17 50 il telefono. Stiamo parlando di TFA, stiamo parlando cioè di truffe dello Stato ai danni di disoccupati e disoccupate, perché di questo a nostro avviso si tratta. Forse è un po' trascian come affermazione, ma insomma, però ne ha tutto il sapore, insomma. E per aggiungere un ultimo particolare, poi pubblicano anche la tabella dei posti, regione per regione, classe di concorso per classe di concorso. Ora io ne vorrei citare una sola. Nella regione Lazio vengono banditi posti per TFA numero 37 per la classe di concorso di latino e greco, dove praticamente da 0,52, dove ci sono soprannumerari ormai, dove fino all'anno scorso con certezza c'erano soprannumerari rispetto alla classe di concorso, cioè c'era gente di ruolo che non aveva il posto, e dove notoriamente c'è una saturazione assoluta, ne abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio, anche perché con quella classe di concorso si può insegnare solo al liceo classico. Il liceo classico tristemente in calo drammatico di iscrizioni, e quindi i posti non possono che andare, secondo il trend attuale, a diminuire. 51 posti nel Lazio per storia e filosofia. Che diciamo i colleghi di storia e filosofia hanno anche fatto un appello per salvare la filosofia, sì, nelle scuole. Perché diciamo sono forse un po' più consapevoli dei classicisti, però comunque insomma la situazione è omologa tra le due classi di concorso, e peraltro c'è un precariato assurdo insomma nella classe di concorso di storia e filosofia. E direi che questi due esempi rendono, sì, non so se hai delle domande, no, in specifico. No, domande specifiche, perché sono agghiacciata e quindi non comunque mi viene in mente su internet potete trovare queste tabelle, appunto, che il Ministero ci ha gentilmente così propagato. Mi viene in mente che forse alla fine è solo per fare pubblicità al TFA e quindi per invogliare qualche sprovveduto a questo punto ad iscriversi al TFA che la ministra non più neo Giannini ha recentemente dato l'annuncio che è in previsione un nuovo concorso a cattedre, che dovrebbe essere bandito per 17.000 docenti nella tarda primavera del 2015, appunto per permettere a chi ha terminato questo percorso formativo TFA secondo ciclo di iscriversi in immediata successione a un altro concorso che evidentemente avrà le caratteristiche di follia che abbiamo tentato di descrivere per quello che si è concluso da poco e i cui abilitati evidentemente non sono stati ancora completamente assunti. Berrei volentieri un caffè, mi pestano i piedi da un'ora, ho le scarpe da sera ma no, non sono in vena. Non ti conosco. A-E-I. 16:50, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Butto il binario. Guarda là. E passiamo a un'altra notizia non certo più allegra. Insomma, dalla stampa abbiamo appreso che a Torino un insegnante muore di mesotelioma, quindi insomma di quella forma tumorale che viene legata all'aver respirato amianto sostanzialmente. Il PM Guariniello formula l'accusa di omicidio colposo per 4 funzionari del comune e 3 dell'istituto. Quindi Raffaele Guariniello ha chiuso le indagini sulla morte per mesotelioma pleurico di un insegnante di scuola media di Torino in seguito, secondo l'accusa, ad anni di esposizione all'amianto nell'edificio scolastico. Indagati 4 funzionari del comune e 3 della scuola. L'osservatorio sull'amianto ha intanto riferito al magistrato di un altro caso di mesotelioma di un insegnante che ha lavorato in 2 scuole materne dove si trovava amianto in vari punti e nei rivestimenti delle tubazioni. Questo dell'amianto negli istituti scolastici è un argomento molto molto serio. Un po' di puntate fa lo ritrovate insomma sul nostro blog, che approfitto per ricordarvi è oradibuco.noblogs.org, scusate ma ho troppi indirizzi in testa. E insomma è uscito come ogni anno il resoconto sullo stato di sicurezza degli istituti scolastici redatto da Legambiente, lo trovate online tranquillamente, c'è una parte dedicata all'amianto, e quello che è certo è che molti istituti ancora hanno il problema di avere insomma l'amianto. Fra l'altro insomma non è un caso che si parli di scuole medie, perché insomma come sapete la scuola media unica esiste dal 62, quindi in quegli anni sono aumentati esponenzialmente studenti e studentesse che dovevano frequentare quell'ordine di scuola, quindi furono costruite molte scuole negli anni 60, molte scuole medie, ed era proprio un periodo in cui si utilizzava moltissimo l'amianto. Sì. La legge che limita l'uso dell'amianto è del 74, quindi tutti gli istituti costruiti prima del 74 non rispondevano insomma alle norme attuali. Sì, non rispondevano alle norme attuali, ed evidentemente, e come mette in evidenza anche il dossier di Legambiente, non è mai stata fatta la bonifica dell'amianto all'interno delle scuole, appunto perché lo stato dell'edilizia scolastica è quello che è, insomma versa nelle condizioni che sappiamo, e diciamo che forse parlando molto seriamente, piuttosto che lanciare boutade propagandistiche, una scuola comune e così via dicendo, ci si potrebbe occupare seriamente di almeno uno di questi problemi, che è appunto dei problemi degli edifici scolastici, che è appunto la presenza di amianto in molti edifici. E insomma ci avviciniamo a grandi passi al 23. Dice, che succede il 23 oltre alla festa della radio? È il giorno in cui i dipendenti della scuola ricevono i soldi, lo stipendio, un busta paga, a noi ci pagano il 23. E questo però è un 23 speciale, perché è il 23 maggio 2014, era Renzi, Quindi è la busta paga in cui scopriremo se ci toccano i famosi 80 euro o no. E allora, come non dare una indicazione che prendiamo da Orizzonte Scuola, insomma, che ringraziamo, disponibile per tutti, e cioè c'è un, come dire, bisogna stare un pochino attenti, perché questo, il credito IRPEF, insomma, che spetta al personale, l'avrete letto su tutti i giornali, con reddito anno inferiore ai 26.000 euro. In particolare, gli 80 euro vanno a chi ne prende meno di 24.000, gli altri ne prendono un po' meno, quelli tra 24.000 e 26.000. Sul sistema NoiPA, cioè quel portale internet su cui noi riceviamo i cedolini dello stipendio, le buste paga, è apparso un messaggio con il quale si informava che il bonus era stato determinato non sul reddito effettivo del 2013, ma sul reddito presunto del 2014. Poi a dicembre verrà effettuato il calcolo definitivo del bonus, che è fino a dicembre, che le dica Renzi, e si procederà a conguagliare sia in positivo che in negativo. E quindi può darsi che me li richiedano indietro? Esatto, questo proprio Orizzonte Scuola lo dice: attenzione, perché magari ve li richiedono, perché il conguaglio lo fanno dopo. Poi, nel caso del personale a tempo determinato, il bonus sarà attribuito in proporzione al periodo di lavoro e il conguaglio ben fatto prima, ovviamente, quando finisce la supplenza. Certo, perché i precari comunque sempre mazzolati. E quindi, insomma, attenzione, se per caso li ricevete, metteteli da una parte sotto il cuscino, insomma, perché forse non sono vostri, forse se li riprendono. Aspettate fino a Natale. Ultima notiziola, ci viene dall'Emilia Romagna. Una spigolatura. Allora, un insegnante trova un, così ve la racconto come una barzelletta, un insegnante trova uno studente in classe col cellulare in mano, pare questo studente guardasse fotoporno, ma questa a noi ci importa anche poco. Ma anche un'importanza relativa. Perché questo, normalmente cellulari in classe non si possono usare, non li possono usare né studenti né docenti. L'insegnante cosa fa? Gli prende il cellulare e lo porta dal dirigente scolastico. Coraggiosissimo questo docente. In modo che il genitore del ragazzo debba andarla a prendere dal dirigente scolastico. E effettivamente la madre ci va dal dirigente scolastico, però accompagnata da un avvocato che denuncia l'insegnante per furto del cellulare. Allora, noi apriamo solo il dibattito, perché adesso sono le 16:57 e lasciamo i microfoni al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Però anche con genitori e genitrici dovremmo farci un po' un discorso pubblico, come quello che caldeggia Boeri, una discussione pubblica. Che dobbiamo fare con questi cellulari? Perché se li teniamo accesi è chiaro che non facciamo più lezione, come adesso sostanzialmente, sì, sotto il banco. Però insomma bisognerebbe un po' aiutarsi reciprocamente, soprattutto con quei ragazzini, insomma, e le ragazzine, quelli grandi, è un discorso che vorremmo aprire con loro direttamente. Sì, soprattutto con i ragazzini e le ragazzine che vanno a scuola in quello che suppone dovrebbe essere un luogo di concentrazione rispetto a quello che si sta facendo, è un luogo, diciamo così, insomma, tendenzialmente di educazione, ecco, però poi ognuno la pensa come vuole. Noi apriamo il dibattito, però ecco, lasciamo perdere gli avvocati, almeno questo ce la sentiamo di dircelo. E le accuse di furto, possiamo parlarne forse in altro modo, no? Sì, anche perché io non lo so se c'è un regolamento che dice che non puoi usare il cellulare, il minimo che posso fare è sequestrartelo. Ci vuole un bel coraggio. Cioè, sequestrartelo. Te lo sottraggo, te lo tolgo, lo prendo, cos'è? Te lo rubo? Sì, no, perché... Vabbè, detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo per uno speciale mense nel comune di Roma. Ciao a tutte e a tutti.